Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Tra i figli delle stelle, dal Movimento 5 Stelle, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, naturalmente sempre un dramma all'interno dei partiti, dei movimenti, quando ci sono delle spaccature, delle lacerazioni, non si va d'accordo su una serie di cose, ci sono le fuoriuscite, ci sono i dissidenti espulsi. Sapete, vi ho detto tante volte che la politica italiana non annoia mai, non dà proprio neanche il tempo, diciamo, di annoiarsi. E la notizia di oggi, quella politica, a parte Renzi a Trento, è appunto che i militanti del Movimento 5 Stelle votano sul blog di Grillo per l'espulsione dei quattro dissidenti, sapete, i quattro parlamentari del Movimento 5 Stelle, che soprattutto avevano criticato Beppe Grillo per il suo streaming con Renzi. Hanno detto, insomma, è un'occasione persa, forse potevi trovare dei punti di contatto. Ecco, sono stati espulsi. Ieri c'era, vi ricordate, parlavo con il deputato Sibilia del Movimento 5 Stelle, c'era questa assemblea per decidere l'espulsione, poi l'ultima parola spettava ai militanti sul blog, e pare che abbiano votato in questo senso. E poi ce ne sono altri che se ne stanno andando via dal gruppo del Senato. Sentivo nel pomeriggio, ho chiamato Laura Bignami, senatrice, anche lei l'ho sentita molto accorata, quasi in lacrime, insomma, che stava prendendo il treno, se ne stava andando, dice: non ho dormito questa notte, ho 39 di febbre, riparliamone semmai domani. Naturalmente, insomma, sono anche dei drammi che si vivono personalmente. Bene, quali potrebbero essere le conseguenze di questa spaccatura? Già leggo alcuni titoli di civatiani tentati dall'unirsi con i dissidenti, gli espulsi dal Movimento 5 Stelle. Insomma, ci sono varie prospettive. Per voi, per le vostre opinioni, 349-238-6666, il numero per i messaggi, o, come sempre, la pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso vi riassumo però prima la giornata. A partire appunto dal Movimento 5 Stelle, espulsi i dissidenti, lo annuncia Grillo, il movimento si spacca tra pianti e insulti. Governo Renzi a Treviso conferma in arrivo il taglio di 10 miliardi di tasse sul lavoro. Stop a Salva Roma, il governo fa retromarcia, il sindaco Marino minaccia le dimissioni. L'Ucraina, il ministro della difesa russo non esclude manovre militari al confine. E allora, ovviamente, partiamo quindi dalla politica, con questa, insomma, spaccatura, scissione che si è consumata nel Movimento 5 Stelle. Sono stati espulsi i dissidenti Luis Alberto Orellana, Fabrizio Bocchino, Francesco Campanella, Lorenzo Battista. Poco fa qui a Radio 24 anche Tacconi ha detto: io lascio, ma sugli altri non sta a me dire. E facciamo dire invece a Vincenzo Miglietta di che giornata tribolata è stata, almeno per il Movimento 5 Stelle. Vincenzo, ciao. Sì, buonasera ai nostri ascoltatori. Una giornata che i nostri ascoltatori possono immaginare di grande tensione all'interno del Movimento 5 Stelle, al di là di come poi ognuno la possa pensare, tensione che è aumentata intorno alle 19, quando è arrivato il tweet di Beppe Grillo con i numeri del famoso referendum online. 29.883 hanno votato per ratificare la delibera di espulsione, 13.485 hanno votato contro. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, questo è il tweet di Beppe Grillo. Sembra in realtà poi che tutti coloro che sono iscritti al blog di Grillo, e quindi hanno la facoltà di esprimersi in questi casi nei referendum, siano stati contattati precedentemente con una mail dallo stesso Grillo, che intendiamoci ha fatto capire come si doveva votare. Ecco, questa è una delle accuse che oggi in queste ore sta girando all'interno del movimento, ovvero che la sentenza fosse già scritta. Poi, Roberta, come giustamente anticipavi, ufficialmente gli espulsi sono quattro, ma poi al Senato la fronda sembrerebbe estesa almeno a 10 senatori, e poi a Radio 24, alla Zanzara, l'onorevole Tacconi ha detto: io me ne vado e con me altri 5. Sui numeri bisognerà poi capire un po' quali saranno i veri numeri. Ricordiamo però ai nostri ascoltatori che non ci si dimette così da un momento all'altro da senatore o da deputato, è poi l'Aula che deve accettare queste dimissioni. E da qui che cosa ne scaturisce? Che i partiti un po' vicini all'area politica del Movimento 5 Stelle adesso stanno facendo un po' la corte, tra virgolette, a questi dissidenti, perché in teoria potrebbero essere voti in più che possono andare a sommarsi ad altri partiti vicini. Infatti, facevi il caso dei Civatiani, ma anche addirittura il capogruppo del PD Zanda al Senato ha detto guardiamo al dissenso nel Movimento 5 Stelle. Era già stato un annuncio di Renzi nel caso anche poi di votazioni, insomma sarebbe numeri importanti. Grazie Vincenzo Miglietta da Roma. Grazie a voi. Ciao Vincenzo, vedo adesso che è arrivata la sentenza, era attesa per le 21, è proprio una puntualità svizzera potremmo dire, la sentenza della Cassazione sul delitto di Via Poma. C'è Roberta per Gatta in diretta a aggiornarci. Roberta, quindi? Sì, quindi dopo 24 anni non c'è un responsabile del delitto di Via Poma, perché la Cassazione ha confermato l'assoluzione, che quindi diventa definitiva, per Raniero Busco dell'accusa di aver ucciso la sua ex fidanzata Simonetta Cesaroni nel lontano 1990, il 7 agosto per la precisione. Il ricorso della Procura Generale è stato respinto, dunque Raniero Busco era l'unico imputato e ora è completamente scagionato. A chiedere l'annullamento della soluzione e un processo d'appello bis per Raniero Busco era stato il procuratore generale della Cassazione Francesco Salzano, secondo il quale nel processo d'appello c'è stata una sottovalutazione, una parcellizzazione degli indizi a carico dell'imputato, con una svalutazione in particolare del movente legato allo stato di tensione del rapporto con la vittima, perché i due ai tempi erano fidanzati. La Cassazione ha detto no, ha confermato la soluzione, dunque ripetiamo, dopo 24 anni non c'è un responsabile, non c'è un colpevole per l'assassinio di Simonetta Cesaroni. Già, grazie Roberta Pellegatta, anche questa vicenda è andata a finire così, poi ci torneremo tra poco. Intanto ritorniamo sulle questioni politico-economiche. Proprio oggi in primo impegno fuori dal palazzo per il nuovo Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che è andato a Treviso, dove ha fatto tappa alla scuola media Luigi Coletti di Santa Bona, alla periferia della città. La prima uscita di Matteo Renzi Premier nell'Italia profonda è a Treviso, nord-est. Parte da una scuola, la multietnica media Coletti di via Santa Bona, periferia del capoluogo, e finisce a Roncade, lungo il fiume Sile, nelle cascine trasformate in incubatore di giovani imprese innovative dalla H-Farm. In mezzo una contestazione che ha accompagnato l'ostinata passeggiata del Presidente del Consiglio lungo le vie del centro di Treviso. Lega Nord, Forza Nuova e soprattutto i Forconi si fanno sentire. Poco dopo Renzi spiega che la contestazione è normale, fa parte del gioco. Il Premier ha visto gli imprenditori, i sindaci del territorio, il governatore Zai, il presidente della provincia Muraro, il sindaco trevigiano Manildo, renziano Doc, non i lavoratori Electrolux che vedrà a Roma. Ribadisce che l'intervento per il taglio del costo del lavoro sarà di oltre 10 miliardi, ma sulle misure le valutazioni sono aperte. Taglio dell'IRAP o del cuneo fiscale. Ma è la scuola il punto che gli sta più a cuore. Nelle prossime ore, con il ministro Giannini e con la struttura anche di Palazzo Chigi, lavoriamo a quel progetto straordinario di edilizia scolastica che sarà uno dei motori di sviluppo nel 2014 italiani. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per il momento il giudizio degli industriali sugli annunci in materia economica del nuovo governo è sospeso in attesa di fatti concreti. Apertura di credito ma anche cautela, e questa è la posizione di Confindustria nei confronti del nuovo Premier, perché se è vero che Renzi in Parlamento ha parlato di temi cari a Viale dell'Astronomia come il taglio del cuneo fiscale e la semplificazione burocratica, occorre vedere poi se le promesse verranno mantenute. Le certificazioni si rilasciano sempre sulla base di dati concreti, dice il presidente Giorgio Squinzi. Matteo Renzi ha sicuramente captato questi problemi su cui dobbiamo intervenire. Però vorrei essere tranquillo che Renzi effettivamente mantenga queste promesse. Quanto al cuneo fiscale, Squinzi aggiunge che un taglio di 10 miliardi sarebbe il minimo, la linea del Piave. In ogni caso occorre agire in fretta con misure per la crescita, perché la situazione è drammatica e la ripresa dopo 9 trimestri di PIL negativo non potrà certo essere vigorosa. Secondo il numero uno di Confindustria, è poi necessaria una trattativa con l'Unione Europea per far ripartire gli investimenti. Credo che sarebbe importante negoziare per il nostro paese, senza voler eliminare questo vincolo del 3% sul debito pubblico, andare a chiedere qualche deroga per investimenti produttivi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sentiamo cosa ha detto oggi il neo ministro dell'economia Padoan alla sua prima volta in Parlamento. Il sistema tributario può e deve essere modificato in modo da favorire la crescita, quindi non solo garantendo certezza, ma possibilmente eliminando costi di gestione e costi di fare impresa o di fare attività economica in senso più lato. Quindi il governo sicuramente è molto soddisfatto di avere a disposizione questo strumento. Il monitoraggio ovviamente dei risultati alla lotta all'evasione è un altro elemento caratteristico di questo strumento. Anche qui l'elemento direi ovvio ma da ricordare è che gli effetti di efficienza richiedono una permanenza dell'azione contro l'evasione e quindi strumenti che evitino, come dire, l'addormentarsi su risultati che paiono acquisiti, che invece devono essere confermati continuamente. Nel frattempo il governo fa retromarcia sul cosiddetto Salva Roma. Chi pensa con l'ostruzionismo parlamentare di mandare in difficoltà Roma è un irresponsabile. Questa è la capitale del paese. Chi dimentica questo probabilmente non è un buon italiano. Si rivolge così a Lega e 5 Stelle il vice sindaco di Roma Nieri dopo il ritiro del decreto Salva Roma 2 a causa dell'ostruzionismo in aula che avrebbe reso impossibile l'approvazione entro la scadenza del 28 febbraio. Ed ora tutto da rifare con il governo che lavora al nuovo testo, il centrodestra che parla di successo, il centrosinistra furioso. E già, perché non solo il Campidoglio rischia il default perché mancano 485 milioni di euro in quel decreto, c'erano anche altri stanziamenti che dovranno ora essere recuperati: 25 milioni per l'Expo a Milano e 90 milioni per le zone alluvionate della Sardegna. Il danno per Roma sarebbe clamoroso: pagamenti, aziende, tenuta economica, obbligazioni, tutto rischia di saltare. Se c'è bisogno di un commissario liquidatore, io non sono disponibile, ha già chiarito il sindaco Marino. Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo della situazione occupazionale, degli stipendi in Italia. Due dipendenti su tre sono in attesa del rinnovo del contratto nel nostro paese, mentre crescono più dell'inflazione le retribuzioni mensili. Aumenta a gennaio l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie. La crescita è dello 0,6%, che porta a più 1,4% l'incremento anno su anno, quindi con gennaio 2013. Questo è il dato generale reso noto dall'Istat, che, scomposto in macro settori, indica una crescita dell'1,8% per i lavoratori del settore privato, mentre resta ferma per i dipendenti pubblici. Invece i settori merceologici con la crescita più spiccata sono energia e petrolio, più 4,6%, estrazioni minerarie, 4,3% e telecomunicazioni, 4%. In parallelo, sempre a fine gennaio, i contratti collettivi scaduti e da rinnovare sono 51 e riguardano circa 8 milioni e mezzo di dipendenti. Ciò significa che due dipendenti su tre in media stanno aspettando la nuova disciplina contrattuale e per averla dovranno attendere in media poco più di 2 anni, 24,5 mesi per esattezza per l'insieme dei dipendenti, media che scende a 11,8 mesi per il settore privato. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Spostiamoci all'estero sulla crisi ucraina. La Procura Generale dell'Ucraina ha emesso un mandato d'arresto internazionale per l'ex presidente Yanukovych per uccisione di massa. Lo fa sapere il nuovo procuratore generale, esponente del partito nazionalista Svoboda. Poco prima il procuratore aveva chiesto alle autorità internazionali di individuare i conti bancari e le proprietà all'estero dello stesso Yanukovych e dei suoi accoliti. Nel frattempo il capogruppo del partito di Yulia Tymoshenko, Patria, Arseniy Yatsenyuk, è stato presentato come candidato premier ucraino a Kiev in una piazza Indipendenza affollata di gente. E adesso il lutto nel mondo della musica: è morto all'età di 67 anni il grande chitarrista Paco de Lucía. Quello di Paco de Lucía non era flamenco spagnolo per turisti annoiati che affollano i bar di Cordova, Siviglia, Granada in Andalusia. Era pura chitarra classica, dove le 6 corde rigorosamente in nylon al solo tocco vibravano ad una velocità impressionante. Era la tradizione popolare più pura del flamenco, che si mischiava con l'improvvisazione del jazz. Paco se n'è andato a 66 anni, lasciandoci un numero notevole di album di altissima caratura e collaborazione con i grandi della musica di sempre. i compagni di scorribande chitarristiche John McLaughlin e Aldi Meola, con cui ha realizzato opere memorabili e celebri tour mondiali come Friday Night in San Francisco, il pianista Chick Corea e il chitarrista fusion Larry Coryell. C'era un tratto triste e nostalgico della sua musica, quel flamenco ascoltato da bambino nei vicoli della sua Cadice, con il volto proteso dall'altra parte del canale verso il Marocco, e quel miscuglio di genti e di voci che ancora oggi puoi ascoltare lungo le strade del quartiere popolare zingaro sivigliano di Triana, cioè il suono di una società multietnica a cui Paco aveva fatto per anni da colonna sonora. E adesso c'è Dario Ricci per il calcio, per la Champions, squadre straniere anche questa sera, no Dario? Ma sempre di una certa caratura naturalmente. Assolutamente sì Roberta, di altissima caratura. E allora subito la cronaca, perché siamo intorno al 32esimo sia a Istanbul che sul campo dello Schalke 04 a Gelsenkirchen. Ebbene, a Istanbul in vantaggio il Chelsea per 1-0 grazie alla rete di Torres all'ottavo del primo tempo, appunto, ovviamente a conclusione di una bel contropiede corale. 2-0 invece del Real Madrid sullo Schalke 04, madridisti avanti al già al 14esimo con Benzema, il raddoppio al 22esimo di Bale, di Gareth Bale, mister 100 milioni di euro, 104 per la precisione, è stato pagato al Tottenham Gareth Bale. Beh, piano piano comincia a ripagarsi, direi Roberta. Bah, diremo di sì, va, insomma, benché qui si parli veramente di dobloni alle stelle. Grazie Dario Ricci. Adesso aggiorniamo chi sta viaggiando. Volevo leggere giusto velocissimamente alcuni dei vostri messaggi che stanno arrivando a proposito dei 5 Stelle. Dice questo ascoltatore, ascoltatrice: vi sembra normale che il sistema di voto pro o contro i parlamentari 5 Stelle preveda un giudizio su tutti e quattro in blocco e non per uno? La responsabilità non dovrebbe essere personale. E poi dice Enzo da Ravenna: anche il movimento di Grillo ha usufruito di un premio di maggioranza virtuale creato dalla spinta emotiva al momento del voto, adesso il movimento sta ritornando al suo alveo naturale. E poi invece Riccardo da Livorno dice: faccio parte del Movimento 5 Stelle sul web, ho votato per l'espulsione ma Grillo non mi ha mandato alcuna mail, ho deciso con la mia testa. Saluti Riccardo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi ancora con voi, Roberta Giordano, per proseguire con il racconto della giornata. Adesso non più in sintesi, approfondiamo alcuni temi. Intanto, prima di tutto, vi ricordo quali sono stati gli argomenti principali della giornata. Espulsi dalla rete i quattro senatori dissidenti, scissione nel Movimento 5 Stelle, una ventina di parlamentari pronti all'addio l'ira di Grillo, drammatica riunione dei gruppi, poi votano in 43.000 sul web. Renzi parte da Treviso, neo presidente del Consiglio, verso il taglio di un terzo dell'IRAP, dice bisogna investire sulla scuola, vado dalla Merkel col Jobs Act. E poi stop al Salva Roma, il governo fa retromarcia, il sindaco Marino minaccia le dimissioni. In Ucraina il ministro della difesa russo non esclude manovre militari al confine, poi l'avete sentito, la sentenza della Cassazione che assolve definitivamente per il delitto di Via Poma Busco, che è in lacrime dopo l'assoluzione. A questo proposito, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, saluto Ernesto Savona, buonasera professore. Buonasera. Che è professore di criminologia all'Università Cattolica di Milano. Insomma, questa è una storia di cronaca nera terribile, ma che ha appassionato, come si sa, inevitabilmente molto l'opinione pubblica, perché succede umanamente sempre così. Sono 24 anni, 25 anni dal 7 agosto 1990, questo delitto della povera Simonetta Cesaroni, che era poco più di una ragazza, che fu uccisa nel suo ufficio, e è arrivata la sentenza della Cassazione che conferma l'assoluzione di quello che era ormai rimasto l'unico imputato, no professor Savona? Sì, diciamo che la verità giudiziale oramai conferma la innocenza di Busco, su questo c'è una pietra sopra e non si può più andare avanti. Rimane una domanda che tutti si chiedono: ma chi ha ucciso Simonetta Cesaroni? Sicuramente questa è la domanda che corre nella testa delle persone che oggi ascoltano questa sentenza. Ma nel tempo, no, era stata archiviata quasi subito la posizione di Salvatore Volponi, che era il datore di lavoro di Simonetta, poi era stato tirato in mezzo Pietrino Vanacore, che era il portiere dello stabile di Via Poma a Roma, dove è stata uccisa Simonetta, che poi misteriosamente il 9 marzo 2010 si sarebbe suicidato. Dico si sarebbe perché fu un suicidio strano, aveva una corda al piede con un masso, no, vicino a nel mare, insomma, con il corpo che era rimasto un po' sulla spiaggia. Fu anche quello un fatto un po' misterioso, diciamo. Quindi di ombre ce ne sono moltissime, soprattutto appunto non si sa chi sia stato il colpevole. Secondo lei questa storia nelle sue tappe ha avuto dei risvolti contraddittori, controversi? Che giudizio dà sulla storia che dura da 24 anni? È anche una tappa della scienza criminologica italiana, nel senso che, se ricorderà, Raniero Busco viene indagato sulla base di tracce di DNA che non erano riconoscibili ai tempi del fatto. Ricordiamo che era il suo fidanzato al tempo, no? Era il suo fidanzato, sicuramente sospettato, ma mai incriminato, perché le tracce di DNA che sono state poi trovate dopo parecchio tempo non risaltavano alle tecnologie dell'epoca, e poi invece dopo parecchio tempo sono risaltate. Ora, dalla sentenza della Cassazione di oggi sembra che quelle tracce non siano sicuramente materiale sufficientemente probatorio per una condanna. La sentenza della Cassazione annulla e conferma quella di secondo grado, che aveva annullato a sua volta quella di primo grado di condanna, e quindi mette una pietra tombale sul processo e dichiara che nessuno ha mai ucciso Simonetta Cesaroni alla fine, oppure che non si conosce chi è il colpevole. Devo dire che c'erano tante di quelle contraddizioni nell'indagine, nelle perizie e nelle varie sentenze una dietro l'altra, che alla fine il procuratore generale della Cassazione giusto o sbagliato aveva chiesto di rifare il processo. Ora, più di tre gradi non si potrebbero fare, devo dire basta, rimaniamo con l'interrogativo di chi è il colpevole, ma è meglio mettere qui la parola fine. Tra l'altro, professore, è un caso che era stato riaperto poi a distanza di anni proprio con le nuove tecnologie, no? I nuovi strumenti, il DNA eccetera, perché al tempo, quando è successo, se non sbaglio, nel 90 ancora non si usava così a tappeto, insomma, lo strumento del DNA, perché sarebbe stato un ipotetico morso sul seno, e quindi di tracce di saliva, di DNA nel reggiseno di Simonetta Cesaroni, che aveva fatto poi incolpare Busco, no? Sì, ma la perizia, l'ultima contestata oggi dal procuratore generale, diceva che forse c'erano più di un morso di persone diverse, per cui a questo punto quel morso famoso non poteva essere riconducibile sicuramente a Busco, a Raniero Busco. A questo punto, nell'incertezza, la Cassazione ha fatto bene a confermare la sentenza di assoluzione. E rimane un interrogativo, però la mia convinzione è che a questo punto occorre dire basta e fine, perché non si può andare avanti cercando un colpevole che è difficile trovare. Sicuramente c'è qualcuno che ha ucciso Simonetta Cesaroni, sicuramente questo qualcuno è libero, però oramai chiudiamo il caso. E infatti per noi, opinione pubblica, per lei professore, per il tribunale eccetera, chiusura del caso, è chiaro, la famiglia Cesaroni dice: siamo ovviamente delusi da questo verdetto di assoluzione, perché c'erano forti incongruenze, dicono: adesso quella di Via Poma resta un delitto senza colpevoli, rimaniamo convinti che c'erano elementi importanti contro Busco. Questo è il commento dell'avvocata Federica Mondani, legale di parte civile della famiglia di Simonetta Cesaroni. Quindi secondo loro c'erano elementi importanti contro Busco, però. Le famiglie delle vittime vogliono sempre giustizia, ma non è sempre che la giustizia significa la condanna di qualcuno. Nessuno ci dice se Busco era innocente o colpevole, o se c'era una terza persona che forse è rimasta nell'ombra finora e che è colpevole. In questa incertezza la giustizia ha un solo dovere, quella di chiudere il caso anche con almeno evitare che un innocente debba pagare il prezzo o debba rischiare il carcere quando forse è innocente. Nel dubbio pro reo, si dice così. Certo. Lei si è fatto un po' un'idea, professor Savona, pare insomma immaginabile che fosse stato comunque un delitto a sfondo sessuale? Sembra di sì. dalle dinamiche del delitto, da quello che ci descrive la scena del delitto, sicuramente è stato un delitto a sfondo sessuale. Ma sai, in questa situazione imputare un fidanzato a distanza di più di 20 anni è sempre molto complicato e difficile, perché le tracce che c'erano sul corpo della Simonetta Cesaroni potevano risalire a qualche giorno prima di rapporti avuti col Busco e basta, era il suo fidanzato. Quindi il rapporto a causa effetto era molto molto complicato da provare. Credo che la sentenza di oggi, ripeto ancora, sia tecnicamente corretta. C'è il legale, il difensore di Raniero Busco, Franco Coppi, famoso avvocato, che dice: sono estremamente soddisfatto di questa decisione della Cassazione, del resto non poteva che essere così perché la soluzione era perfettamente motivata. E poi dice: rimane il dispiacere per il barbaro omicidio di una giovane ragazza e spero che presto prendano il colpevole. Come cittadino, dopo aver detto, esprimo fiducia nella giustizia. Auspica che prendano il colpevole, ormai, come dice lei professore, mi sa che la pietra è definitiva su questo caso, no? Direi proprio di sì, cioè se non lo si è preso al tempo, se Busco non era il colpevole, era rimasta ormai una traccia di Busco, non c'è altri come alternativa, che si riapre il caso dopo 3 gradi di giudizio che si trovi il colpevole, diciamo che è un'aspirazione legittima, ma non credo che sia proprio questa la situazione finale. Grazie professore Ernesto Savona. Di nulla, grazie buona continuazione, buona serata. E adesso vado ancora a leggere alcuni dei vostri messaggi sul caso 5 Stelle, che diciamo è l'evento politico più importante della giornata, da qualsiasi parte lo si voglia vedere. Ciro dice: più che una spaccatura è un prevedibile dissenso interno, visto che comunque si parla di un movimento nato da poco, di cui forse non tutti gli eletti avevano ben chiara la radicalità di comportamento. Per il Movimento 5 Stelle in fondo è tutto di guadagnato perdere ora i poco convinti. Questa è l'opinione di Ciro. Bene, ci prendiamo questa pausa di pubblicità. Voi potete continuare a esprimere naturalmente le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure sui messaggi al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, abbiamo parlato del delitto di Via Poma, della soluzione definitiva dell'unico imputato che era rimasto. Vi ricordo adesso quali sono i fatti principali, poi dopo ci spostiamo invece sui grandi progetti annunciati da Renzi e anche sui discorsi, le cose che ha detto oggi a Treviso e anche su quali potrebbero essere poi le risorse per portarli a termine, per renderli concreti. Vi ricordo i titoli. Movimento 5 Stelle espulsi i dissidenti, lo annuncia Grillo, il movimento si spacca tra pianti e insulti. Governo Renzi a Treviso conferma in arrivo il taglio di 10 miliardi di tasse sul lavoro. Stop a Salva Roma, il governo fa retromarcia e il sindaco della capitale Marino minaccia le dimissioni. Delitto di Via Poma, la Cassazione assolve definitivamente Renato Busco che dice è la fine di un incubo. Ucraina, il ministro della difesa russo non esclude manovre militari al confine ma si va verso un governo di transizione. E saluto subito Dino Pesole. Ciao Dino. Buonasera Roberta. Caro Dino, hai sentito oggi, appunto, Renzi ha debuttato da Presidente del Consiglio a Treviso, è andato prima di tutto in una scuola perché ha detto già più volte: io riparto dalla scuola, la scuola dobbiamo investire nell'istruzione perché c'è una corrispondenza tra i paesi più sviluppati a livello di istruzione. Questo naturalmente è cosa che possiamo benissimo immaginare, che sappiamo. Finora insomma nessun governo si è dato troppo da fare su questo tema. Ieri avevo la neo ministra Giannini che ha detto: insomma, sono molto contenta come ministra dell'istruzione se è vero che finalmente ci sarà questa svolta, questo cambio di cultura. E poi le altre tante cose, no, che aveva già annunciato anche nei suoi discorsi programmatici: Renzi, lotta alla burocrazia, taglio del cuneo fiscale, restituzione totale dei debiti della pubblica amministrazione, il grande piano di edilizia scolastica. Si parla anche di dove trarre queste risorse. Sentiamo un attimo che cosa ha detto a proposito del cuneo fiscale, per esempio, Renzi oggi. Noi ridurremo di almeno 10 miliardi il cuneo fiscale. Come lo riduci può essere modulabile, mi spiego. Se tu riduci l'IRAP, cioè l'imposta sulle aziende, le aziende hanno immediatamente un elemento di concretezza economica. Che dici? C'è concretezza economica quindi, Dino? Allora, diciamo subito che le proposte di Renzi, così come sono state espresse in questi giorni, soprattutto in Parlamento, sono buone intenzioni, sono progetti, sono programmi, quindi va benissimo ed è secondo me giusto dare a Renzi, al neo governo, comunque il beneficio in qualche modo della buona volontà. Dopodiché, ovviamente, come in tutti i governi che l'hanno preceduto, il problema fondamentale è come e dove andare a reperire le risorse per un piano così importante di riduzione delle tasse, fermo restando che è fondamentale nel nostro paese agire sulla tassazione sul lavoro, e su questo siamo d'accordo tutti. E allora, così come è fondamentale agire sul tema dell'edilizia scolastica e della sicurezza delle scuole. Io ho accolto con grande favore il passaggio in cui Renzi si è soffermato su questa emergenza. Ecco, detto questo però, 2 miliardi per sbloccare il patto di stabilità interna ai comuni e consentire loro di spendere quello che non possono spendere per rafforzare la sicurezza delle scuole, va benissimo, ma bisogna trovare risorse compensative. 10 miliardi per ridurre il cuneo fiscale in un modo che ancora non è stato deciso, l'abbiamo appena ascoltato, probabilmente si tratterà di un mix tra IRAP e meno IRPEF sotto forma di maggiori detrazioni per i lavoratori, va benissimo, ma costa 10 miliardi. Allora, se, e io spero che così sia, il governo e il nuovo ministro Padoan sono in grado, entro breve, perché questa è un'operazione da fare rapidamente, di individuare una tale mole di risorse senza gravare sui conti pubblici, saremo i primi a complimentarci con il nuovo governo. Viceversa saremo ancora nel campo delle buone intenzioni. Questo è un po' il punto di fondo. Dino, sentiamo anche che cosa ha detto sempre oggi Renzi a Treviso a proposito della Cassa Depositi e Prestiti. La Cassa Depositi e Prestiti può aiutarci sostanzialmente a sbloccare cifre che per quello che ci riguarda sono leggermente più alte, nel senso che il margine che noi immaginiamo è di circa 60 miliardi di euro per fare quello che ha fatto la Spagna. Lei ha seguito la vicenda spagnola, sì. C'era una situazione abbastanza simile. Mettendo immediatamente in circolo 60 miliardi di euro, sarebbero nel caso nostro, in Spagna mi pare fossero addirittura anche di più, l'effetto, virgolette, shock che si è verificato è un effetto benefico immediato. La Cassa Depositi e Prestiti farà due cose diverse. Uno, garantirà un fondo, diciamo, i fondi per aiutare, per agevolare la lotta al credit crunch. Due, attraverso il meccanismo che già è sostanzialmente utilizzabile nell'arco di 15 giorni con due emendamenti che noi abbiamo già pronti e che stiamo studiando con Del Rio e Padoan, permetterà di sbloccare i 60 miliardi che in questo momento sono fermi. Ma in che modo? Guardi, sono un emendamento già pronto, mi dia 15 giorni di tempo per presentarli. Caspita, è sempre veloce Renzi, naturalmente. Dino, hai sentito? Quindi la Cassa Depositi e Prestiti è questo grosso bacino di risorse economiche, possiamo dire, dello Stato, dove ci sono i risparmi postali. Eh sì, la Cassa Depositi e Prestiti trae la sua forza dal risparmio postale. Dopodiché però non sono in pericolo i risparmiatori, no? Magari qualcuno Questo punto di vista non credo ci siano rischi. È stata utilizzata però nel corso degli ultimi anni, e non solo nelle intenzioni espresse da Renzi, anche nei fatti, un po' come una cassaforte di riserva, ed è il motivo che è presto spiegato, perché secondo le regole contabili europee i finanziamenti che passano dalla Cassa Depositi e Prestiti non transitano per il deficit, cioè sono, come dire, considerati sotto la linea, come dicono i tecnici e gli esperti della contabilità pubblica. E dunque però qual è il problema? Va benissimo utilizzare la Cassa Depositi e Prestiti, a parte che non sia una partita di giro, nel senso che comunque poi alla fine il costo lo deve sostenere lo Stato. E per la precedente partita sui 40 circa miliardi che il governo Letta ha sbloccato nel biennio 2013-2014 si è aumentato il debito pubblico, e dunque insomma bisogna stare un po' accorti. Ancora non ho ben capito quale dovrebbe essere il meccanismo, forse lo stesso Renzi non l'ha ancora nemmeno lui chiaro. Speriamo di no. Anche in questo caso però, come dire, se troveranno, non capisco bene perché non ci abbiano pensato prima, ma comunque se troveranno un veicolo adatto che passi attraverso la Cassa Depositi e Prestiti senza pesare sui conti pubblici, anche in questo caso saremo i primi a complimentarci. E a fare applausi. Sentiamo invece cosa ha detto a proposito del patto di stabilità, Dino, sentiamo. Abbiamo già spiegato che noi rispetteremo i vincoli modificando innanzitutto il patto di stabilità interno. Vi segnalo un punto che è emerso dalla discussione con i sindaci, che mi ha molto colpito. Il 70% dei sindaci con cui abbiamo parlato ci hanno presentato progetti pronti sull'edilizia scolastica, su cui non chiedono soldi al governo, no? Chiedono soltanto che si modifichi il patto di stabilità interna. Hai sentito anche sul patto di stabilità, Dino Pesole? Sì. A parte che poi anche con l'Europa, insomma, bisognerà fare anche sui patti con l'Unione Europea, no? Bisognerà fare un po' di cercare di arrivare a dei compromessi, a della flessibilità, non so fino a che punto, insomma, sarà possibile, visto che lui, Renzi, ha detto alla Camera ieri non ci faremo dettare l'agenda dall'Unione Europea. Certo, questo è vero. È altresì vero che le manovre di risanamento dei conti pubblici attuate negli ultimi 5, ma anche di più, 10 anni, hanno di fatto reso impossibile per i comuni utilizzare la leva degli investimenti, e questo è un fatto molto grave, perché se i comuni vengono privati dell'ossigeno, delle risorse per investire nelle strade, nelle scuole, negli asili nido, questo è un problema vero. Però anche qui, se si sblocca il patto di stabilità interno e si liberano questi flussi di denari che vanno agli enti locali, bisogna andare in Europa e contrattare che comunque questo possa avvenire, perché le politiche economiche ormai dei paesi si fanno in Europa, fermo restando che l'obiettivo del governo Renzi sembra essere, e secondo me giustamente, quello di rispettare i parametri europei. Bisognerà trovare dei margini, e secondo me ci sono a livello di trattativa diplomatica con l'Unione Europea, per riuscire a contrattare magari un tempo un po' più prolungato per rientrare nei parametri che ci vengono attribuiti, soprattutto per il debito. Allora sì che ci si apre lo spazio per liberare gli investimenti, però non è che ci sono 2 miliardi sotto il cuscino, bisogna andarli a recuperare e lavorare attentamente con Bruxelles. Insomma, cioè è un'operazione non semplicissima, ma insomma speriamo che si possa realizzare. Io penso di sì, questa partita è aperta comunque. Dino Pesole, ultima domanda, poi ci sarà uno dei dissidenti fuoriusciti o espulsi, come definirlo, tra poco, del Movimento 5 Stelle, sul decreto Salva Roma che è saltato, e quindi sì. Il sindaco Marino dice: attenzione, il Campidoglio rischia il default, lui minaccia le dimissioni, e la ministra Boschi ha detto: ci sarà un nuovo provvedimento, ci sono troppi emendamenti al momento. Sì, questo è un bel pasticcio, perché il decreto Salva Roma non è alla prima edizione in Parlamento, e questo, devo dire, è un segnale da non sottovalutare, il fatto che il Parlamento non lo vuole. Quindi, però lì c'è un problema, cioè il problema è che, essendo un decreto legge e quindi ha effetti operativi immediati, questo decreto legge ha disposto a beneficio del Comune di Roma uno stanziamento di 460 milioni. Che sono già stati in qualche modo incorporati nella previsione di bilancio del comune, e che adesso si trova con un buco di non indifferente di quasi 500 milioni. Allora, al di là delle polemiche politiche che sono comprensibili, la Lega, Roma ladrona e quant'altro, al di là dei 5 Stelle, qui c'è un problema. Il problema è che bisogna trovare il veicolo normativo per ripristinare questi fondi, perché sennò Roma Capitale, appunto, c'è una norma che lo prevede, e rischia di andare a picco. Quindi è un problema che riguarda il governo, che secondo me farebbe bene però a non utilizzare nuovamente la strada del decreto legge, anche per i vincoli posti da Napolitano e dalla Corte Costituzionale. Magari si può studiare un emendamento a uno dei decreti che sono in discussione, o viceversa un disegno di legge cui attribuire una corsia preferenziale in Parlamento da far approvare rapidamente. Il problema è che, se un decreto decade, gli effetti giuridici del provvedimento che è già in vigore sono già disposti, Quindi bisogna farvi fronte, non è la prima volta che accade, è una faccenda seria. Un'altra bella grana questa sul governo, sì, grazie. È una bella grana. Grazie intanto Dino Pesole, buona serata. Buona serata a voi. Ciao, grazie. Dino. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve le riassumo in 6 secondi, poi parliamo con Francesco Campanella. Espulsi oggi, come sapete, dalla rete i 4 senatori dissidenti, tra cui Francesco Campanella, scissione del Movimento 5 Stelle, una ventina di parlamentari pronti all'addio, l'ira di Grillo e drammatica riunione dei gruppi. Governo Renzi a Treviso conferma in arrivo il taglio di 10 miliardi di tasse sul lavoro, poi lo stop a Salva Roma, l'avete sentito, e il delitto di Via Poma, la Cassazione assolve in via definitiva Renato Busco. Buonasera Francesco Campanella, grazie di essere qui Effetto Notte. Buonasera a tutti. Buonasera, sento una voce grave, è grave anche la situazione, la sua voce profonda Campanella, insomma sicuramente si è consumato, è comprensibile, un dramma all'interno del Movimento 5 Stelle, anche a livello individuale, come sono andate le cose Campanella? Ma in pratica gli iscritti non hanno risposto al nostro appello. Noi abbiamo chiesto se preferivano un movimento in qualche modo chiuso, la falange, chiuso al dialogo all'esterno e ad ascoltare istanze diverse rispetto a quelle che in qualche modo già conosce, oppure se preferivano un movimento aperto, un movimento accogliente, cioè sostanzialmente secondo me più capace di guardarsi dentro anche in modo critico. Hanno scelto il primo modello. Senta Campanella, qualcuno, secondo indiscrezioni, per carità, giornalistiche o di corridoi parlamentari, eccetera, insinuava che Grillo avrebbe contattato prima i vari iscritti al blog, al sito del Movimento 5 Stelle di Grillo, dicendo già come dovevano votare. A lei risulta questa cosa? Guardi, credo che sia stata fatta una cosa assolutamente alla luce del sole, cioè Grillo stamattina quando ha annunciato la consultazione ha espresso in modo palese la propria preferenza per una conferma della posizione dei parlamentari. Per usare una metafora, è come se il presidente di un seggio alla presentazione di un elettore gli avesse dato la scheda elettorale facsimile insieme. Ho capito. Campanella, senta, ma è vero che diciamo il capo d'accusa principale è stato il fatto che voi quattro, lei, Orellana, Bocchino, Battista, avete fatto quel comunicato congiunto quando c'era stato il famoso streaming tra Renzi e Grillo, criticando un po' Grillo, dicendo insomma poteva essere un'occasione di dialogo, di trovare dei punti in comune, di cominciare a partecipare in modo diverso alla vita politica, e invece è andata così. È quello il principale motivo di questa espulsione? Il fatto che ci abbiano messi tutti e quattro insieme, cioè gli stessi firmatari del documento, in qualche modo fa pensare a questo. Io penso che quello in qualche modo sia stato una sorta di casus belli, però parlare di capo di imputazione francamente è improprio, anche perché questa non è un motivo che secondo le norme del nostro regolamento e del codice di comportamento che abbiamo sottoscritto sarebbe bastante per l'espulsione. Per cui da un punto di vista giuridico tutta questa operazione, tutta la procedura che ha seguito un percorso assolutamente strano. Campanella, quindi per chi accusa il Movimento 5 Stelle di essere antidemocratico, lo stesso Grillo nello streaming con Renzi ha detto io non sono democratico, lei avalla questa dimensione del movimento o qual è la sua posizione adesso da espulso o da dimissionario? Come possiamo definirlo Campanella? Tecnicamente espulso credo. Il punto è questo, il movimento ha due aspetti, in questo momento per me sono assolutamente evidenti. Una parte c'è la voce degli attivisti che fanno attività politica per strada, fanno attività politica in modo assolutamente senza soldi, gratuito, nel senso migliore di quello del... E poi c'è questo vertice che opera dal blog, che è un vertice a questo punto, che dà degli input. Lì praticamente si può dire che c'è un ottimo personale e una pessima organizzazione. Ah, questa è la sua definizione. Campanella, senta, Tacconi, prima Radio 24 ha detto che fuoriesce anche lui un po' per solidarietà, la stessa Laura Bignami che sentivo nel pomeriggio, ha sentito vari colleghi, avete ricevuto la loro solidarietà, o qual è stato il clima, i rapporti, le relazioni in questo frangente? Guardi, con molti colleghi, le colleghi rimangono ottime al di là della divergenza politica, anche perché parliamo di gente che ha quello stesso spirito. Quando parlo di ottimo personale faccio riferimento anche a loro, che così come me sono degli attivisti su tutti gli effetti, anche se impegnati qui all'interno delle aule parlamentari. Con qualcuno c'è una situazione un po' più complicata, come per esempio col capogruppo, che non ha svolto la sua funzione. Ecco, se avessi avuto, se non fossi stato espulso, avrei avuto modo e avrei fatto francamente con convinzione una richiesta di dimissione su carico. Secondo me si è dimostrato assolutamente inadeguato. Campanella, mi dica una cosa, adesso quindi voi che farete? Siccome i civatiani già dicono da qualche giorno, ma potremmo fare un nuovo gruppo con i fuoriusciti del Movimento 5 Stelle, forse con Sella, che intenzioni avete? Guardi, in primis in questo momento la nostra attenzione è focalizzata su quello che dobbiamo fare, sostanzialmente su come comportarsi. Alcuni tra noi vogliono dimettersi, io personalmente sarei più dell'idea di proseguire la lotta che mi ero prefisso di seguire quando sono venuto qui a Roma da Palermo. Fondamentalmente gli obiettivi ci sono tutti e non mi pare che il Movimento 5 Stelle, impostato così com'è, sia in condizione di perseguirli in maniera efficace. Cioè, non ho capito, Campanella, lei non si dimette dal Movimento 5 Stelle o non si dimette dal Parlamento? Non mi è chiaro, scusi. No, dal Movimento 5 Stelle mi dimette, non ci sto più. Dal Parlamento, il mio problema è dal Parlamento. Ah. In ogni caso intendo, muovermi insieme in sintonia con gli altri, anche perché è importante che il progetto si può portare avanti, siamo un gruppo. Grazie Campanella. Vedo, scrive Morra, Nicola Morra, il senatore del Movimento 5 Stelle, dice: sono ottimista, il Movimento ha tutte le carte per recuperare lo slancio. Abbiamo 20 secondi con la sua battuta, Campanella. Francamente non sono d'accordo con lui. Va bene, chiarissimo. Grazie Campanella e buon lavoro, buon proseguimento. Ci sentiremo ancora, spero. Grazie. Grazie Campanella. Adesso parliamo di Europa. Bruxelles sta lavorando a un progetto per rendere internet più sicuro. Sapete che prevedendo l'anonimato la rete può essere fonte anche di cose molto illegali. E pare che questo problema possa arrivare a risolverlo prima l'Europa che noi gli Stati Uniti. Europa 24 notte. Verso le europee. Un manifesto della gioventù su come fare un internet migliore è il progetto cui lavora il vicepresidente della Commissione europea Nelly Kroes, un'esigenza che appare sempre più necessaria non solo dopo i casi di spionaggio internazionale. Quanto è sicuro ad esempio il ciberspazio per gli utenti europei, soprattutto per i bambini? L'Unione europea può diventare il pioniere nella lotta contro la criminalità in internet, dalla pornografia infantile alla frode elettronica alla pirateria? In Europa le capacità e le tecnologie ci sono, serve solo la volontà di agire insieme, dice Corrado Giustozzi dell'ENISA, European Network and Information Security Agency. L'Europa ha tutti i tasselli, sia quelli di ricerca, abbiamo centri di eccellenza in diverse università europee per quanto riguarda in particolare la sicurezza, abbiamo aziende importanti nell'ambito della sicurezza in vari paesi d'Europa. Quali ad esempio? Università, abbiamo Salerno in Italia, Milano, Torino e poi abbiamo università di eccellenza in Europa, tanto per dirne una, l'attuale algoritmo standard di crittografia usato in tutto il mondo è stato sviluppato in Belgio, all'Università di Lovanio. Aziende ce ne sono tante, dai soliti noti, diciamo, colossi della difesa, a aziende più snelle, più verticali, a volte nate come spin-off di iniziative accademiche, e ce ne sono diverse in Europa. Il problema è, come al solito, l'armonizzazione, la messa a fattor comune, l'armonizzazione degli impianti legislativi. Nell'ambito della cyber strategy europea c'è proprio un focus particolare sulla creazione di un mercato unico europeo per questo genere di servizi di sicurezza o di prodotti. Chiaramente non significa dover rimpiazzare tutti i prodotti americani, però significa per esempio fare ricerca autonoma, sviluppare algoritmi europei, implementare meccanismi di sicurezza europei sui quali gli Stati membri hanno maggior controllo rispetto a qualche cosa che viene importato direttamente da fuori. Ad oggi quanto è sicuro Internet in Europa? In Europa o nel resto del mondo non cambia niente. Internet è intrinsecamente insicuro, questo è il dato di fatto, perché è una tecnologia che ha 40 anni, anzi è stupefacente che ancora funzioni, perché è nata, diciamo, alla fine degli anni 60, da quando tutta Internet nel mondo era fatta di 2000 computer, e oggi c'è quasi 1 miliardo di computer, eppure la stessa tecnologia continua a funzionare. Quindi da un lato è sbalorditivo che funzioni, dall'altro soffre del fatto che è stata progettata in un periodo in cui le esigenze erano altre. Erano esigenze di condividere informazioni, non di blindarle. E è chiaro che oggi ci troviamo a fare i conti con un utilizzo diverso. Oggi vogliamo mandarci sopra transazioni finanziarie, messaggi riservati, commerciali, e quindi Internet non è fatta per queste cose. I protocolli che adoperiamo sono ancora vecchi di 20 anni e si basano sulla buona fede di tutti i partecipanti. È come un semaforo. Un semaforo non impedisce di passare col rosso, dice che non si può passare col rosso, ma se qualcuno vuole passare col rosso lo fa, non c'è un impedimento meccanico. Ecco, Internet funziona esattamente così, e prima di cambiarne il funzionamento ci vorrà molto tempo. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Bene, mi fermo a questo punto, ma ritorno tra pochissimo.